saggezza e fortuna. Molto tempo fa, in un piacevole pomeriggio estivo, l'angelo della saggezza, chiamato Whiz, era seduto in un parco a leggere il libro della conoscenza. Improvvisamente, davanti a lui, apparve l'angelo della fortuna, chiamato Luck. Ciao amico, cosa fai? Riempio il mio oceano di conoscenza e saggezza con altra... sai... conoscenza. Wow, sembra davvero noioso. Bene, ciò che è noioso per qualcuno è divertente per qualcun altro. In questo vasto universo di tempo e spazio, gli esseri sono... Ok, ti fermo subito. Abbiamo un compito. Il capo vuole che ce ne occupiamo noi. Compito? Sì, dai, andiamo. Te lo spiegherò lungo la strada. Whiz annuì e Loki schioccò le dita. Immediatamente i due scomparvero. Wow, questo posto sembra perfetto. Sì, sembra adatto. Sembra cosa? Vedi... Non importa. Hai capito tutto quello che ti ho detto sulla strada? Sì. La principessa Selena non ha detto una parola negli ultimi 3 anni e dobbiamo farla parlare. Hai capito? Ecco, lei sta arrivando, nasconditi. Non dobbiamo nasconderci, lei non ci può vedere. Ah, lo so, era uno scherzo. La principessa Selena li superò con le cameriere dietro di sé. Whiz rimase incantato. Sì, è bellissima. Ora concentrati, perché questa è solo una parte del compito. Oh, c'è un'altra parte? Loki fece l'occhiolino e schioccò le dita. E i due scomparvero di nuovo. In un attimo apparvero fuori da una piccola casa dove un giovane stava innaffiando le sue piante da fiore. Il suo nome è Happy, ma sfortunatamente non lo è. Ok. Dobbiamo far parlare la principessa grazie a lui e anche farli sposare. Questo è il compito? Sì. Ma perché? Perché il capo vuole che questo venga fatto? Voglio dire, non ha senso. Destino? Vuoi dire fato? No, intendo destiny. L'angelo. L'angelo del destino? Oh. Cosa ha fatto? Vedi, un giorno, dopo aver scritto il destino di Happy, ha deciso di fare un pisolino. Non sapeva che il suo piccolo criceto si sarebbe mosso furtivamente verso l'alto e avrebbe mangiato quella pagina. E il destino di Happy è andato perduto per sempre. Ma che cosa c'entra mai questo con Selena? Beh, sull'altro lato della pagina c'era scritto il destino di Selena. Oh! Sì! È per questo che sono così infelici nelle loro rispettive vite. Destiny non ha idea di cosa debba essere fatto. E, come sai, a ogni essere di questo universo viene assegnata solo una pagina dal libro. Così... Quindi, ora che le pagine a loro assegnate sono sparite, il capo ha preso la parola. Vuole intrecciare le loro vite per dargli una direzione e sigillare così i loro destini. Bingo! Quindi... qual è il piano? Nel pomeriggio, quando Happy andrà al mercato per vendere i suoi fiori, entrerai nella sua testa e andrai direttamente al palazzo del re. Se le guardie proveranno a fermarti, beh, sai cosa fare. Come osi impedirmi di entrare nel palazzo? Ho con me i fiori benedetti che crescono sulle sponde del fiume di Hanna. Questi fiori faranno parlare di nuovo la principessa. Dopo che avrai ingannato con successo le guardie, tu ti annuncerai direttamente al re, che sarà occupato con i suoi ministri. Buongiorno, oh maestà del grande regno di Montanna. Vengo da te con il potere di far parlare di nuovo la principessa, con l'aiuto di questi fiori. Davvero? Puoi farlo? Sì, maestà. Non darmi false speranze, straniero. Da quando sua madre è morta, mia figlia non è più stata in grado di parlare. Apparentemente è uno shock emotivo che l'ha resa incapace di parlare. Tutti gli eremiti e i dottori del mondo non sono stati in grado di farla parlare. In che modo i tuoi fiori faranno ciò che i più grandi uomini e donne di questo regno non sono stati in grado di fare? Datemi una possibilità, ed io non vi deluderò. Se non dovessi riuscirci... Ed è qui che inizia il gioco... Ah, hai mani forti! Andò tutto secondo i piani di Loki e Whiz. E infine, Happy era nel palazzo. Maestà, potrà sempre punirmi come vorrà nel caso in cui non avessi successo. Ma se ci riuscirò, vorrei poter chiedere alla principessa di sposarmi. Cioè, sempre che voglia sposare me, ovviamente. Il re pensò per un po' e poi annuì. Le guardie fecero entrare Happy nella stanza della principessa, che sedeva vicino alla finestra con il suo cane in grembo. Grazie, signori. Se non vi dispiace aspettare fuori, non ci vorrà molto. Le guardie annuirono e uscirono dalla stanza. La principessa Selena guardò Happy, ma non disse una parola. Proprio in quel momento, il suo cane abbaiò. Happy si avvicinò subito alla principessa e si inchinò. Se non ti dispiace, posso? La principessa gli diede il cane. Oh, sei così adorabile! Sono venuto da Farja per incontrarti, oh cane magico! A questo punto, la principessa era confusa. Il mio nome, Happy, e il grande santo di Namjes mi ha detto che sarai in grado di parlarmi del mio destino. Per favore, dimmi, oh cane magico, dimmi che cosa mi succederà. Chi mi sposerò? Quanti figli avrò? Dimmelo, ti prego, per favore. In quel momento, le labbra di Selena tremarono e lei parlò irritata. Smettila! Non può parlare, è un cane! Ma tu puoi! A quel punto, gli occhi della principessa divennero umidi quando si rese conto di aver finalmente pronunciato parole dopo anni. La principessa ha finalmente parlato! Evviva! La notizia che la principessa aveva parlato raggiunse presto il re. Ne fu felice! Mia figlia ha parlato? Voglio incontrarla subito! Quando il re raggiunse la stanza della principessa, trovò Happy e la principessa che ridacchiavano, ridevano e parlavano. Davvero? E poi? Questo fece arrabbiare il re, perché si ricordò le condizioni di Happy, ma il re non avrebbe mai permesso a qualcuno dello status di Happy di diventare marito di sua figlia. Immediatamente gli venne in mente un piano e se ne andò da lì. Più tardi quel giorno, quando Happy tornò a corte per parlare con il re, fu preso dalle guardie. Cosa? Cosa succede? So che hai fatto parlare mia figlia, ma non posso assolutamente lasciarvi sposare. Non è possibile! Ma mi hai dato la tua parola. La parola del re non ha alcun valore? Come osi parlare con il re in questo modo? Guardie, prendete questo maleducato plebeo e mettetelo dietro le sbarre. Cosa? No! E proprio allora, dal nulla, apparve Lucky. Ti sono mancata? Ok, ora sarebbe un buon momento per te di intervenire e prendere il mio posto. Lucky fece l'occhiolino e subito i due si scambiarono. Whis uscì e disse: i migliori auguri. Grazie, adesso guardami. Le guardie erano sbalordite. Con chi sta parlando? Proprio in quel momento la principessa Selena arrivò correndo. Padre, c'è un... Cosa? Cosa sta succedendo? Perché le guardie hanno preso Happy? Padre? A questo punto le lacrime sgorgarono dagli occhi del re. Aspettavo da anni di sentirmi chiamare di nuovo papà. Vieni qui, bambina mia, abbraccia tuo padre. La principessa Selena si avvicinò subito a suo padre e l'abbracciò. Ma padre, perché Happy? Il re spiegò a Selena le condizioni di Happy. So di avergli dato la mia parola, ma è un uomo comune, eh? Ma padre, mi piace. Non so se voglio sposarlo, ma vorrei conoscerlo. A sentir questo, Happy sorrise. Tu cosa? Liberalo, padre. I tuoi sudditi diranno di te che non mantieni la tua parola. Non ti ascolteranno mai più. Il re annuì. Hai ragione. Ma ti piace davvero? Sì, padre. Selena si voltò verso Happy e disse: mi piaci, Happy. Vogliamo conoscerci un po' prima? Happy annuì e Selena sorrise. Bene, allora. Guardie, liberatelo. E tu, signor Happy, non so cosa fai, ma amo molto mia figlia. Lavora sodo per darle una bella vita, capito? Sì, vostra maestà! E così, adesso Happy aveva uno scopo nella vita e la principessa Selena aveva una ragione. Quando Happy tornò a casa, era così felice che decise di fare un pisolino. A questo punto Lucky uscì. Bene, dobbiamo programmarlo in modo che non si ricordi di me e di te. Dovrà pensare di aver fatto tutto da solo. Hai ragione! Puntarono le dita verso Happy e scintille di magia gli toccarono la fronte. E abbiamo finito! Andiamo a dire al capo che abbiamo fatto? Sì, andiamo! A proposito, ottimo lavoro di squadra! Abbiamo dimostrato che saggezza e fortuna vanno di pari passo! Whis sorrise e schioccò le dita e i due scomparvero. Ciao capo! Abbiamo portato a termine il nostro compito! Il vecchio aprì gli occhi e disse: Bene! Bravi! Voi due avete fatto bene! Grazie, capo! Penso che dovremmo aggiornare Destiny a riguardo. Sì, sì, fatelo voi! Dicendo questo, il vecchio richiuse gli occhi. Loro andarono a casa di Destiny. Oh, ciao ragazzi! Cosa vi porta qui? I due spiegarono a Destiny tutto, che rimase stupita di sapere che il problema era stato risolto. Oh, grazie mille! Sono stata disattenta ed è accaduto tutto questo! Oh, non incolpare te stessa, Destiny! Va tutto bene adesso, ma... Ehi, dov'è quel tuo piccolo criceto? Dovrebbe essere da qualche parte! Oh, eccolo! Vieni, piccoletto! È così carino! Vorrei... E quindi il destino è stato scritto per Happy e Selena. Non sappiamo se si sono sposati e hanno vissuto felici e contenti, ma sappiamo che l'universo ora aveva un piano per loro.